Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Cominciare quella che è la nuova settimana di Eclettica. Beh, in effetti è già cominciata ieri con la prima delle pillole di Eclettica, che questa settimana saranno solo quattro, in quanto è una settimana che prevede un giorno festivo proprio nel mezzo e non c'è terapia nei giorni festivi. Dovreste averlo imparato, almeno voi che ascoltate Eclettica da qualche stagione a questa parte, mentre per quanto riguarda l'Eclettica serale nulla cambia. Quattro parti di 30 minuti ciascuna, dal martedì al venerdì, replicate poi anche il sabato e la domenica sera, sempre alle ore 20, e comunque disponibili in podcasting. Trovate le informazioni sul sito di Rock FM o su MySpace, il MySpace di Eclettica, che è relativamente facile da trovare. Eclettica che ripresenta la sua solita formula di musica, libri e cinema. Attento, tieni la testa a posto, ti servirà. La città in cui ti conduco è vasta e intricata e tu non ci sei mai stato prima. Puoi immaginare, da altre storie che hai letto, di conoscerla bene, ma quelle storie ti hanno illuso, accogliendoti come un amico, trattandoti come se fossi uno del posto. La verità è che tu sei un alieno, in tutto e per tutto, arrivato da un altro tempo e da un altro luogo. Quando ho catturato il tuo sguardo la prima volta e tu hai deciso di seguirmi, probabilmente pensavi di arrivare qui e sentirti a casa. Ma adesso ci sei davvero, in quest'aria fredda, tagliente, trascinato nell'oscurità più nera, e inciampi su un terreno accidentato, senza riconoscere nulla. Scrutando a destra e a sinistra, strizzando gli occhi contro il vento gelido, ti accorgi di aver imboccato una strada sconosciuta, di case buie, piene di gente sconosciuta. Questo era l'incipit del Petalo Cremisi e il Bianco di Michael Faber. Feel ill that we have crashed a party, yeah. This is what you get when you mess with us. Prendono in mano lo stesso progetto che già avevano portato avanti nel 2003. Allora si chiamava Dub Side of the Moon ed era l'intero album dei Pink Floyd rifatto in levare. Loro si chiamano Easy Star All Stars. E che album hanno preso questa volta da rifare in levare? Beh, Karma Police dovrebbe sicuramente avervi dato qualche indicazione. Ok, computer, tutto rifatto con... questo stile. È un album, questo, che è già uscito da parecchio, uscito ad agosto, era lì, come spesso capita, nella pila dei dischi da ascoltare, per qualche motivo non veniva mai infilato nel lettore. Poi l'illuminazione. Ci siamo ascoltati Karma Police, ma ce ne sono anche altre che valgono sicuramente la pena. Vi segnalo, per esempio, No Surprises. Easy Star Records è il nome dell'etichetta reggae di New York, per cui incidono questi Easy Star All Stars. È una All Star Band, più o meno come... quella di Rock FM. Ora vi devo dare una notizia che penso vi renderà felici, almeno coloro fra voi che non sono parte della lista nera, che hanno avuto la possibilità di saperlo con forte anticipo. Infatti sono qua per parlarvi di una serie di concerti che faranno Cyan & Ben, che ci stiamo per ascoltare. Quindi quest'oggi, nella prima parte di Eclettica, pochi ma lunghi brani. Ci stiamo per ascoltare con il pezzo che tipicamente passa in Eclettica in questo periodo, Sunny Morning. Verranno in Italia per una serie di date, ve ne sottolineo due, quella di Bologna e quella di Firenze. Perché ve le sottolineo? Ve le sottolineo perché saranno date assolutamente gratuite. E allora, assieme ad Audioglobe, abbiamo pensato ad una cosa: a chi va a vedere i concerti regaliamo il disco di Cyan & Ben, grazie ad Eclettica. Le date sono il 10 di novembre a Villa Serena di Bologna e l'11 di novembre al Ponte Rotto di Firenze. Se scrivete a giulio@radiorockfm.com e date il vostro nome e cognome, ma fate in fretta perché, appunto, grazie all'anticipazione sulla lista nera e molti già si sono fatti vivi, potrete non solo andare a vedere un concerto gratuito, ma tornare a casa anche con il disco del gruppo che vi siete ascoltati. Ponte Rotto, già ho ricevuto un bel po' di mail che mi chiedono: ma dov'è Ponte Rotto a Firenze? Allora ho chiesto informazioni e queste sono quelle che mi sono tornate. Ponte Rotto è un po' fuori Firenze. Queste sono le indicazioni per arrivarci: Circolo Arci Ponte Rotto, via Viaccia 148, Montelupo Fiorentino, Firenze, a 100 metri dall'uscita Empoli Est della FIPILI, direzione San Montana. Spero che queste indicazioni siano per voi sufficienti per raggiungere il posto giusto. E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci Sunny Morning. Loro sono Cyan & Ben.

I got some scotch. Single malt? Aged 18 years. The way I like it. Esiste anche un video di questo brano intitolato Buying Things From Your Past. Il gruppo si chiama Marty, la voce che avete sentito è quella di Andrea Bruschi, il cui volto magari potreste conoscere in quanto è comparso in più di un film. Unmade Beds, questo il titolo del disco che ci siamo ascoltati, e Eclettica prosegue con una nuova band che proviene dal Canada, nuova per quanto riguarda la mia conoscenza e la mia possibilità di inserirli nelle playlist di Eclettica. Poi loro hanno una storia che è cominciata parecchi anni fa, nel 2000. Io sono venuto in contatto con questa formazione grazie alla Tomblab, che mi ha mandato il nuovo Sangue Puro, titolo proprio in italiano, da parte della band che di nome fa Les Georges Leningrad. Loro sono dell'Ontario, sono una formazione a tre. La cantante, donna, Pony P, ha una stazza che direi simile a quella delle gossip. Non so se si stia creando un movimento di questo tipo, ma perlomeno si nota questo, il fatto di avere una certa stazza e non farsi giustamente problemi nel nasconderla. Lei suona synth come anche gli altri due componenti, Mingo Lindien e Bobo Butin, che però si avvalgono anche di chitarra e batteria. Sono fatti tanti paragoni per questa band. Uno che a me piace fare è anche quello con i Suicide, non è l'unico nome che viene in mente, ma visto che non l'ho trovati citati da nessuno, mi piace aggiungerli. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 10 di Sangue Puro, che si intitola Skulls in the Closet. Siamo di molto avvicinati a quella che è la chiusura della prima parte di Eclettica di questa settimana, che si chiude con una compilation tutta italiana, una compilation genovese, Zenatron volume 1, che presuppone anche un volume 2, una compilation che comprende il meglio della produzione attuale, il panorama creativo della scena genovese senza limiti di genere. Il brano che io ho scelto per chiudere questa prima parte di Eclettica è un bel remix di un brano dei Meganoidi, si tratta di Zeta Reticoli. Sarei curioso di sentire anche il vostro parere su come Bongo Jam ha rifatto Zeta Reticoli. Thank you. Eclettica. Fine della prima parte.